Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il fiume rubato con Andrea Perdicca, regia Nicola Pannelli, una produzione Narramondo Teatro. Musiche Yo-Yo Mundi, Alessandro Hellman, tratto da Cent'anni di veleno, il caso ACNA, l'ultima guerra civile italiana di Alessandro Hellman, stampa alternativa. Terra di Savona, comune di Cengio, 26 marzo 1882. Verbale relativo alla domanda del signor Pessano Giuseppe per essere autorizzato ad impiantare in tenimento Ponzano, territorio di questo comune, una fabbrica di dinamite. A volerla raccontare sin dall'inizio, questa storia comincia qui. Comincia con una delibera della giunta presieduta dal sindaco Garella Antonio che autorizza la costruzione di un dinamitificio nel comune di Cengio, a pochi passi dal confine con il comune di Saliceto in provincia di Cuneo. La linea di confine tra i due comuni segna anche il confine tra due regioni, Liguria, Piemonte. Nel 1882 Cengio, con le sue case sparse tra i bricchi del Poggio, la conca del fiume, lungo lo stradone e la ferrovia, non si differenzia tanto dagli altri piccoli borghi agricoli della Valle Bormida, sembra un posto come un altro. E allora? Perché proprio qui? L'autorizzazione è poco più che una formalità, intanto hanno spianato il terreno lungo le sponde del fiume, il cantiere è aperto, la fabbrica cresce di giorno in giorno, mattone su mattone, una ragnatela di tubi, camminamenti, scale, passerelle, ringhiere nei tubi. Ti immagini una linfa densa che sale, cresce a nutrire come cose vive vasche, macchine, serbatoi, i contadini. La osservano crescere dalle loro case, dalle loro cascine di fango e di pietra, indicano con il dito, è un miracolo. Nessuno ha mai visto una fabbrica così grande, cresce. Un corpo estraneo che si gonfia dal fondo della valle che sembra inghiottire ogni cosa. L'orizzonte non si vede più. Le sue ciminiere sono più alte degli alberi, più alte dei campanili delle chiese. Il cielo sembra essere ferito. Ma perché proprio qui? Qui perché la terra costa poco. Perché quando servono le braccia per lavorare, si recluta la gente del posto che al lavoro c'è abituata. Gente sana, disponibile, ben allenata alla rassegnazione. Gente che si sfinisce di fatica nella vita dei campi e delle vigne, ma quella fatica che ti scava il volto e ti spezza la schiena finché le gambe non ti reggono in piedi. A questi contadini, abituati a lavorare tutto il santo giorno, all'affa d'estate, al gelo d'inverno, all'inizio il turno in fabbrica sembra quasi un riposo. Ci rimane anche il tempo per badare ai campi e alle bestie. C'è lo stipendio sicuro alla fine del mese che il padre eterno può mandar giù grandine siccità, ma si mangia lo stesso. E poi, signori, non ci dimentichiamo che questa è una fabbrica di dinamite, non di caramelle. E tu mica puoi metterla in città, una fabbrica come questa, qui dove tutto sommato, anche se salta in aria, fa poco danno. Così, nel giro di pochi mesi, il dinamitificio Barbieri comincia a produrre nitroglicerina, polvere pirica, dinamite, carichi di materie prime, corrono avanti e dietro dal porto di Savona, che da lì alla fabbrica ci si arriva comodamente, c'è anche la ferrovia. Non è come in Piemonte, che ci sono strade poco più larghe di un sentiero per le capre. Tutto il liquame di avanzo delle produzioni lo si getta nel fiume Bormida. È roba ingombrante, velenosa, non serve a produrre niente che si possa vendere, trasportarla costa cara, i depuratori non si sa ancora che cosa siano. E grazie a Dio che c'è il fiume a disposizione. Però l'acqua diventa nera. Se segui il corso del Bormida a Valle di Cengio, Il primo paesino che incontri è Saliceto. Saliceto è un piccolo borgo agricolo della Valle Bormida che si stringe intorno alla piazza del municipio, la piazza grande del paese. 5 anni prima della costruzione della fabbrica, Saliceto produce oltre 300.000 litri di vino, un dolcetto che oggi si definirebbe pregiato. Vive di quello che la terra gli offre: grano turco, fieno, frumento, legna, ortaggi, castagne. Nelle cascine si allevano capre, pecore, mucche, qualcuno ingrassa il maiale e ricava il salame. Boschi, colline sono pieni di volpi, lepri e cinghiali. Il fiume Bormida è uno dei fiumi più pescosi d'Italia. Però attenzione, perché la vita dei campi non era uno scherzo, non è una passeggiata, non è come quando oggi andiamo in agriturismo il weekend. Qui si fa tutto con la forza delle braccia, le macchine agricole non ci sono ancora. L'aiuto dei buoi per gli scassi nel terreno, si vive aggrappati alla terra con le braccia come radici, perché è dalla terra che viene il senso della vita e il senso della morte. La giornata del contadino inizia un'ora prima dell'alba, finisce un'ora dopo il tramonto, perché i lavori nelle stalle per accudire le bestie si fanno nelle ore buie per non sprecare le ore di luce. Così d'estate si arriva a lavorare 12, 14, 16 ore al giorno. E poi c'è da sperare che non venga a grandinare, sennò va tutto in malora. Ma questa è gente che sa accontentarsi, lavora duro, vive di poco. Se l'annata è buona e quel poco basta, e va bene così, grazie a Dio. Nel 1890 la fabbrica impiega già 700 operai ed è destinata a crescere, perché nei primi del Novecento c'è la spinta della politica coloniale della campagna di Libia. Nel 1906 il dinamitificio Barbieri viene rilevato dalla SIPE, società italiana prodotti esplodenti. Nel 1908 la SIPE costruisce nuovi impianti, così che lo stabilimento arriva a comprendere una superficie di 500.000 metri quadrati. Adesso detto così uno non se ne rende conto. Voi provate ad immaginare che è come se fossero 70 campi di calcio messi tutti quanti insieme. Ogni giorno la fabbrica produce 14.000 kg di acido solforico, 13.000 kg di olio, 2.500 kg di tritolo, tutta roba che ci vorrebbe uno che ha studiato la chimica per spiegarcela bene. A noi ci basti sapere che è roba che serve per fare bombe e gas. A cosa servono le bombe e i gas? Non ce lo deve spiegare nessuno. Cresce la fabbrica, cresce Cengio, da borgo agricolo qual era, te lo vedi diventare, non batter d'occhio, un centro industriale come quello delle grandi pianure. Si costruiscono ville per dirigenti e impiegati, mentre giù nella conca Pian Rocchetta, a pochi metri dal confine, spuntano come funghi case popolari, baracche per le famiglie degli operai. Però ti si gela il sangue a vederle quelle case, affacciate come sono alle ciminiere della fabbrica che sputano fuori i loro fumi a ogni ora del giorno e della notte. C'è un odore acre che ti prende la gola, ti inzuppa gli abiti, ti entra nella pelle, un odore di acido che nessun sapone riesce a lavare. Ti devi vergognare ad andare anche con le ragazze con quell'odore che non ti si toglie mai di dosso. Ma per fortuna che qui 300 giorni l'anno soffia il Marin, quel fumo se lo porta giù lungo la valle verso le Langhe, grazie a Dio. Ma quando spira a tramontana sono dolori, perché il fumo torna indietro e a Cengio non si respira. Ma sullo stradone, vicino alla frazione Ginepro, costruiscono un palazzone di diversi piani per gli operai celibi, che la gente pensa a tutto, pensa al regalo di Natale, al dopolavoro, all'asilo, al campo sportivo, e se ti senti male c'è il medico di fabbrica che pensa per te. Magari prima ti dà qualche medicina se proprio serve, se no ti sposta di reparto, respiri un'aria migliore per un po' e ti senti subito meglio. La politica dell'azienda in questo periodo si può riassumere con il motto di Pino Pini, factotum della direzione: se in cielo comanda Iddio, qui a Cengio comando io. Sul piazzale, di fronte all'ingresso della fabbrica, c'è il Palazzo Rosso. Ringhiere in ferro battuto, lampadari, soffitti dipinti, ritratti alle pareti, nei piani alti. È tutto un succedersi di sale da pranzo, sale da gioco, servizio bar per le riunioni importanti, che chi è stato a Torino dice che anche lì ci sono dei palazzi così. Ma qui da noi roba da signori, non si sono mai visti. Qui da noi, se esci fuori, tutto è ricoperto da una polvere grigia. C'è una bolgia di fumi e di nebbie che anche in primavera, per vedere un po' di sole, tu devi aspettare mezzogiorno. I veleni di quella nebbia malata, che arrivano fin giù a Corte Emilia, ritornano sulla terra sotto forma di rugiada, così che l'uva, la frutta, la verdura non le puoi mangiare, sanno di fenolo, non trovi a venderle. Le bestie si rifiutano il foraggio. Campi e vigne lungo il greto del fiume inselvatichiscono, ritornano gerbido. L'acqua del fiume non puoi utilizzarla né per abbeverare le bestie, né per irrigare i campi, né per risciacquare i panni. Panni e lenzuola le donne se le caricano su un carro e se le vanno a lavare nel torrente Uzzone, perché l'acqua del Bormida li corrode, gli lascia addosso quell'odore cattivo di medicina. Ma d'estate sono dolori, perché l'Uzzone diventa un deserto di alghe, pietre secche, di acqua non ce n'è nemmeno l'ombra. Nel 1909 arrivano le prime denunce della popolazione. Il pretore di Mondovì dichiara inquinati i pozzi dei comuni di Saliceto, Camerana, Monesiglio, e ne vieta l'uso. Adesso però serve un po' di carta bollata. con firme, sigilli, scritta come si deve, da chi a scrivere è capace. Ma poi l'Italia entra in guerra, la dinamite serve come il pane, bisogna produrne di più, servono altre braccia per lavorare, ma qui c'è l'imbarazzo della scelta, perché chi lavora nella fabbrica della dinamite non parte mica per il fronte, sempre meglio l'inferno della fabbrica che l'inferno della trincea. Ci si raccomanda, preti, parroci, sindaci, tutti i santi del paradiso, oh, da che mondo è mondo a far la guerra, non ci vuole andare nessuno. Municipi, chiese, diventano uffici di collocamento, poco importa se devi andare a lavorare con l'acido picrico, anzi meglio, perché c'è tra quelli che non trovano lavoro in fabbrica, che l'acido picrico se lo fanno portare a casa da un compagno che ci lavora per mandarselo giù come se fosse vino, per farsi venire l'ittero picrico, così magari al fronte non ce li mandano. Ma mica si muore solamente al fronte, si muore anche in fabbrica. Per lo scoppio di una pressa muoiono in 9, 8 operai, un dottore in chimica. È fatalità che quando è destina, perché se vai sotto i portici del Palazzo Rosso trovi una lapide che gli ricorda: in queste officine alla patria, prestando esplosivo da guerra, ebbero morte nell'utile oscura fatica. Poi c'è la morte che non si vede, il male brutto, il male che non si dice, il male che non c'è cura che ti salva. Nel 18 a Cengio lavorano 6.000 operai. Il solo impianto di acido picrico scarica nel fiume Bormida più di 50.000 litri al giorno di liquami gialli, che se scendi sulle sue sponde li vedi arrivare fino a dopo Bubbio, 70 chilometri di distanza da Cengio. Finalmente la guerra finisce, ma il fiume Bormida resta giallo e puzzolente. Non si può nemmeno dire però che non sia stato fatto niente. Voglio dire, vengono costruite due enormi vasche per il filtraggio delle acque di lavorazione, che è un grande lavoro ma che non serve a niente, perché l'acqua è talmente acida che in pochi giorni corrode il fondo delle vasche e riprende la via del fiume. Così nel 1922 il pretore chiude l'acquedotto di Corte Emilia e la gente è stanca, è stufa, comincia a fare manifestazioni contro la fabbrica e comincia a domandarsi: ma a che serve la polvere da sparo adesso che la guerra non c'è più? E in effetti serve ben poco, tant'è vero che nel 25 la fabbrica finisce in mano all'Italgas del cavalier Rinaldo Panzarasa. Che fa Panzarasa? Progetta di convertire la produzione in coloranti e altre sostanze chimiche intermedie che si integrano bene con l'industria del gas illuminante. Sinergia è la parola d'ordine. Oh, ma queste sono cose che non si fanno in un giorno, sono cose che costano, ma Panzarasa è un uomo pieno di entusiasmo e c'è da ammirarlo, perché negli affari un po' di intraprendenza ce la vuole. Che fa Panzarasa per rincorrere i suoi progetti? Corre in America a prendersi in prestito 5 milioni di dollari dagli americani, che là i soldi ce l'hanno. Appena i soldi arrivano comincia a spenderseli, soltanto che non bastano mai. Si dice che lo stabilimento di Cengio non è sufficiente a completare il ciclo produttivo della chimica organica su scala economicamente redditizia, che a parlar semplice costa di più di quello che rende. Panzarasa, per completare questo benedetto ciclo produttivo, che fa? Si compra altri due impianti, uno a Rho, uno a Cesano Maderno. Certe produzioni si fanno qua, certe produzioni si fanno là. Sinergia, integrazione, nel 1929 costituisce l'ACNA, Aziende Chimiche Nazionali Associate. Ha! L'idea è brillante. E i soldi? I soldi bisognerà trovarli. Panzarasa si indebita fino al collo, ricorrendo più volte al credito delle banche. Qui da noi, all'estero, la Banca d'Italia storce un po' il naso, ma per fortuna che arriva l'autorevolissimo aiuto di Sua Eccellenza il Capo del Governo, che questa è un'industria italiana e bisogna tutelarla. Non è un'industria qualsiasi, è un'industria strategica. E certo, e se serve, tu la puoi riconvertire in un batter d'occhio in industria bellica. L'aiuto del governo non è cosa da poco, arrivano un sacco di soldi. Non devi starti a preoccupare troppo di ispezioni, verifiche, controlli, appalti per forniture, meccanismi di mercato, tutto diventa più flessibile, va avanti da sé. Puoi persino permetterti il lusso di sovrapprodurre per di più a costi elevati, a patto che ciò rientri all'interno di un disegno politico. Ma quando c'è di mezzo la politica e il governo, devi stare attento. Occhio Pinocchio a come cambia il vento, perché così come è facile entrare nelle grazie di qualcuno, allo stesso modo è facile uscirne, tant'è vero che Panzarasa all'improvviso, per via di certi scontri di potere tra gerarchi fascisti, si ritrova dalla parte sbagliata. L'Italgas è sull'orlo del fallimento, ma nel 31 viene svenduta alla Montecatini in società con il colosso tedesco IG Farben. Non sembra il nome di un lassativo o di un'associazione caritatevole? Ma di caritatevole la Farben ha ben poco, perché finanzia il partito nazista in Germania, detiene il brevetto del gas Zyklon B, quello usato nelle camere a gas, ed è proprietaria della buna di Auschwitz, dove gli ebrei vengono costretti ai lavori forzati per produrre benzina sintetica e gomma per la conquista dell'Europa, che se Hitler non avesse incontrato il sostegno della Farben nel suo cammino, magari sarebbe rimasto lì a fare l'imbianchino. Ma comunque alla fine del Terzo Reich i suoi dirigenti verranno processati a Norimberga per crimini contro l'umanità. La Farben verrà divisa in tre gruppi: Bayer, BASF, USH. BASF e USH attualmente fanno parte delle sei multinazionali che controllano il 90% di produzione e distribuzione di sementi OGM sul mercato. Guarda che roba! Ma quando racconti una storia, quante ne vengono fuori? Non bisognerebbe raccontarle tutte quante. Torniamo alla nostra. ACNA, 1931, con l'arrivo della Montecatini e della IG Farben tedesca, si modifica il nome dell'azienda da ACNA ad ACNA. Da aziende chimiche nazionali associate ad aziende colori nazionali affini. Si mantiene l'acronimo, non c'è da cambiare nemmeno la carta intestata. L'intervento diretto della Montecatini viene richiesto in maniera chiara e tonda dal capo del governo. Si sa che quando Benito chiede qualcosa, tu non è che ci devi stare a pensare troppo su, eh? Lo fai e basta. Da 6.000 che erano i dipendenti nel 18, ora sono scesi a 700. Per risollevare le sorti dell'azienda ci vuole un'altra guerra, che quando c'è da rilanciare l'economia, la guerra è una mano santa, specie se vai a farla a casa degli altri. E gli americani non si sono mica inventati niente. Con l'approssimarsi della campagna d'Abissinia, la seconda guerra mondiale, riprendono a pieno regime le produzioni belliche. Per le strade si canta Faccetta Nera, le giovani generazioni crescono con la fede in Dio, nella patria, preparate a difendere l'Italia e il fascismo. L'ACNA è l'unica azienda del gruppo Montecatini che fa rispettare in maniera rigorosa le leggi razziali, perché i tedeschi della Farben su queste cose sono proprio tedeschi. E allora via tutti quanti gli ebrei! Molti di quegli ebrei vedremo che continueranno a lavorare per la Farben per il resto della loro vita, ma nello stabilimento di Auschwitz il Bormida continua ad essere la fogna che era. Sulle sue rive non ci cresce neanche più un filo d'erba. Nel 1938, 600 contadini della valle, tutti d'accordo, decidono di citare l'ACNA per danni. Ci vuole l'avvocato. È ora di far rispettare la legge, i diritti di chi lavora. Ora però si sa che la legge ha i suoi tempi. Ispezioni, verifiche, controlli, e si va presto a dire tu hai ragione, tu hai torto. Non è così facile. Prima bisogna ascoltare le parti in causa, raccogliere le testimonianze, le prove, studiarsi i cavilli delle leggi. Oh, c'è sempre qualche documento che si perde. E poi, tra tutta questa roba che non si perde qualcosa. E allora, ci vuole del tempo. Poi c'è una questione così importante, io non capisco perché tu non voglia ascoltare il parere del governo. Questioni così delicate, uno deve averci il buon senso, l'umiltà di saper recepire pareri autorevoli. Fatto sta che tra passaggi di carte, rinvii da una scrivania all'altra, gli agricoltori della valle dovranno aspettare 24 anni per sentirsi dire che gli scarichi dell'ACNA sono fertilizzanti perché contengono nitrati, sostanze che sui terreni hanno effetti benefici e rigeneranti. E deve essere uno scherzo. Ma chi hanno tutti quanti la faccia seria? Gli agricoltori vorrebbero prendere questi illustri uomini di legge e portarli a vedere di che colore è il fiume, fargli vedere cosa resta dei loro campi e delle loro vigne, fargli assaggiare l'uva, la frutta, la verdura. Perché sì, è vero, a Saliceto crescono pomodori grossi come cocomeri, ma tu prova ad assaggiarli e poi mi racconti. Certo che questi contadini sono proprio ignoranti, più sono ignoranti e più pretendono di sapere e conoscere tutto, solamente buoni a lamentarsi e piangere miseria. Piuttosto assicuriamoci che paghino le spese processuali. Molti di questi contadini, per pagarsi le spese processuali maturate in 24 anni, saranno costretti a vendersi le proprie cascine. Ma ho fatto un salto di 24 anni. Facciamo un passo indietro. Torniamo a un pomeriggio d'ottobre del 39. In valle è un pomeriggio come tanti altri, con i ragazzini che vanno a pascolare le bestie, a raccogliere le castagne nei boschi. Oh, quando c'è bisogno ci si dà da fare un po' tutti quanti insieme. All'improvviso la terra trema. L'aria sembra che cade a pezzi. Uno scoppio più forte di un tuono lo sentono a Saliceto, Camerana, Monesiglio. Si resta impietriti davanti la colonna di fumo nero che sale su in cielo da Cengio. L'esplosione del reparto Pentrite lascia sul pavimento della fabbrica 5 morti. riposi in pace, d'altronde ci vuoi fare, sono tempi difficili, tempi di magra, tempi che se lavori già sei fortunato, che mica puoi star lì ad investire i pochi soldi che ci sono per rendere gli impianti più sicuri? E lì ci vuole un po' più di attenzione e buonsenso da parte di chi ci lavora. La cosa che c'è da fare subito invece è investire per la produzione, perché c'è di nuovo la guerra e serve altra dinamita all'esercito. Poi ragazzino, parlo con te, se non ti sta bene che stai tanto lì a farlo schizzinoso, ti metti il fucile in spalla, forza, fuori, pedalare, per servire la patria. Sacrosanto. Ma ad onor del vero bisogna dire che nel secondo dopoguerra le condizioni di lavoro non cambiano mica molto, al limite cambiano le sostanze in produzione, tant'è vero che fin giù ad Alessandria, a 100 chilometri di distanza da Cengio, si stanno chiudendo i pozzi contaminati dal cromo. E allora? E allora si lavora come si può con quello che c'è. Se entri in fabbrica, t'accorgi che in certi reparti gli operai montano degli specchi per controllarsi a vicenda, così che quando vedi che a un tuo compagno sono venute le labbra viola perché magari ha respirato nitrobenzolo o qualche altra schifezza, fermi tutto e lo porti in infermeria. In infermeria, gente in gamba, preparata, sanno quello che devono fare, ti fanno l'iniezione di una roba blu che ti rimette subito in sesto e ti rimandano al lavoro, la prima e la seconda volta, perché la terza volta si vede che la roba blu costa cara, mica possono dartela ogni due per tre come se fosse un bicchiere d'acqua, ti spostano direttamente di reparto. A fine turno c'è chi prova a farsi la doccia per togliersi di dosso l'acido che ti fa venire la pelle e i capelli gialli, ma non è così facile, perché di docce per tutti gli operai ce ne sono solamente 20. Tu a non sporcarti non ce la fai, le movimentazioni dei solidi in sabbia e granuli devi farle a mano, le polveri vanno dappertutto, ti entrano negli occhi, nel naso, nella bocca, te le ritrovi nella micca di pane che ti mangi durante la pausa pranzo, tra i sacchi di stoccaggio o addossato a qualche autoclave per ripararti dal freddo d'inverno, puoi sputare per terra pure l'anima, ma quel sapore maledetto ti resta in gola anche quando esci fuori dalla fabbrica e te ne torni a casa. Poi ci sono i gas, tutti i tipi, tutti i colori, rosso, grigio, blu, viola, giallo, verde, che mica escono solamente dalle ciminiere, no signore, perché le tubazioni sono talmente vecchie che gli acidi le corrodono in continuazione, senza poi parlare delle perdite dalle flange, dai premi stop. Sì, ci puoi provare a legare intorno uno straccio, ma non serve a niente. Le fogne dei reparti girano a cielo scoperto, al limite sopra c'è una griglia, ma anche da lì esce fuori il vapore dei rifiuti che scorre verso le vasche di decantazione prima di gettarsi nel Bormida. E devi stare anche attento a non inciamparti e caderci dentro. È pieno di macchinari, basconi pieni di prodotti lasciati a raffreddare, non ci si vede neanche tanto bene, le poche lampadine che ci sono incrostate di uno strato di ossido color verde rame, i vetri delle finestre sono ancora verniciati di blu dai tempi dell'oscuramento, ma se ci sono le finestre apriamole che entra un po' di luce, esce un po' di vapore. Le finestre non si possono aprire perché? Perché ci corrono contro, sapete, le tubazioni del gas, del vapore, dell'acqua, e sapete com'è, anche gli impianti maturano, crescono, si sviluppano, e mica puoi star lì a buttar giù, tirar su muri, cambiare la struttura del fabbricato, ma ci pensa quanto costa? Allora, se devi aggiungere macchinari, serbatoi, tubazioni, li metti dove trovi un po' di posto, pazienza se lì prima c'era una porta o una finestra, in qualche modo si deve pur fare. Il fiume Bormida cambia colore ogni giorno. La neve che cade in fabbrica prende una tinta diversa a seconda di dove si posa. Gli operai li riconosci dal colore. Chi esce dal reparto base è colorato di giallo dalla testa ai piedi, lascia impronte gialle e sputa saliva gialla. Chi esce dal reparto rodamina ha addosso una polvere verdolina che a contatto con la pelle e con l'umidità diventa rossa. Ma l'azienda mica se le sta con le mani in mano. L'azienda al benessere degli operai ci pensa. Allora, se lavori al reparto base ti danno da bere il latte, che fa bene a prescindere a priori e dovesse mai servire, anche disintossicante, anche se non serve. Chi lavora al reparto beta naftilamina gli danno da bere il tè, che anche quello fa bene a prescindere a priori e dovesse mai servire, anche se non serve, però ti manda a pisciare più spesso. Oh, e l'azienda mica ti fa pisciare a caso, perché di tanto in tanto ti fa l'esame delle urine nell'infermeria di fabbrica, e l'infermeria di fabbrica è una bella cosa, perché certi esami che ti fanno qua dentro ad andarli a far fuori ti costerebbero un occhio della testa, chissà quanto dovresti aspettare ricette, prenotazioni, tempi d'attesa. Vai un attimo in fabbrica, ti conoscono, sanno chi sei, hanno la tua scheda con i tuoi dati. Poi per quelle piccole stupidaggini come le dermatosi alle mani o al viso, ma ci pensa il medico di fabbrica a dirti Non mangiare le fragole che fanno venire l'allergia. La moto lasciala a casa, che il vento rovina la pelle. Tu voglia spiegare che le fragole a casa tua non si sono mai viste. E tu, al lavoro, ci vai in corriera. Comunque, le visite e le analisi che si fanno in fabbrica sono solamente per precauzione, perché non c'è assolutamente pericolo. Le sostanze che maneggi lavorando non sono nocive. E col limite possono dare fastidio un po' a qualcuno che è un po' più ipersensibile all'olfatto, ecco, diciamo così. Tanto per dirne una, ci sono anche i guanti di precauzione. Non servono perché non c'è pericolo. Dovesse mai, così dico, capitare di toccare qualcosa con le mani. Scusi, io con le mani qui ci lavoro tutto il giorno. Di polveri e acidi ce ne sono dappertutto. Bravo! Fai come dico io! Metti il guanto, prendi precauzione, non c'è pericolo. Scusi, ma se non c'è pericolo, perché io devo prendere precauzione? Ragazzino! È la seconda volta che te lo dico! Occhio! Questa è una fabbrica, non è una sala da ballo. Se ti va bene, stai, sono fuori. Pedalare! E a dar retta a questi qua, uno dovrebbe chiudere tutto e mandare a casa la gente a far la fame. Le 46, in fabbrica, lavorano 2000 operai, la ripresa è dura, la produzione non decolla. L'azienda riduce l'orario di lavoro da 48 a 42 ore settimanali, 24 ore in meno al mese. Questo genera una spaccatura all'interno della fabbrica tra gli operai liguri e piemontesi. All'interno della gazzetta ufficiale dell'ACNA si legge: gli operai, i veri lavoratori dell'industria, hanno dovuto fare in questi giorni un altro grande sacrificio, le 42 ore settimanali. Ora, io sono convinto che i compagni lavoratori non protesteranno per le 24 ore mensili che debbono fare in meno, quindi salario in meno, anche se avrebbero tutte le ragioni se un giorno si decidessero a farlo. La terra ai contadini, le fabbriche agli operai, già! Perché non è giusto che chi può vivere fuori da questo stabilimento lavorando la propria terra debba venire a Cenzo a sfruttare chi non ha altro che due braccia per lavorare. Sappiamo che ci sono tra noi dei vampiri che, pur possedendo diversi ettari di terreno coltivabile, la pecora, la capra, i buoi, la mucca, il maiale, continuano a venire a lavorare in fabbrica. Diciamo una buona volta a costoro che se ne vadano fuori dai piedi. Non importa se sono insostituibili, come dice qualcuno. Io ho sempre visto che morto un papa se ne fa un altro. Costoro, in maggioranza, fanno turni. Vengono in fabbrica per riposarsi. Questi qui lavorare un giorno in meno alla settimana è tutto lavoro che possono fare in più a casa loro. 1000 più lire in meno al mese? Non importa. Tanto il pane, che pane. Le patate, eccetera, non debbono mica comprarli. Anzi, c'è chi ne vende ancora. Così ragionano. Ma noi, cari compagni, diciamo che sto mese 3000 lire allo spaccio, 1000 più al negozio. 1000 risolatura di scarpe, un pezzo di focaccia per fare colazione ogni mattina perché il pane della tessera non basta, i bambini che vanno a scuola, l'affitto, la luce, l'acqua, la legna, qualche sigaretta, un bicchiere di vino ogni tanto, infine, non si lavora solo per mangiare. Questo per dire che in questi anni di voci critiche contro la Montecatini non ce ne sono mica molte. Gli operai sono più impegnati a litigarsi il pane tra di loro pur di tirare avanti. Le poche pecore nere vengono isolate o chiamate a colloqui individuali, dove tra le tante altre belle cose si parla anche di argomenti interessanti come passaggi di categoria, aumenti per merito, gratifiche di bilancio. Nei reparti più disagiati ci si manda a lavorare gli operai più anziani che a fine mese prendono in busta paga l'indennità penosa, che per carità, che se hai da rifare una casa o riparare un tetto, una mano santa, ma l'azienda l'indennità non te la dà mica tanto per dartela, perché lo sa che gli conviene pagare l'indennità piuttosto che parlare di manutenzione e adeguamento degli impianti. Questo si chiama monetizzazione del rischio. Chi pratica la monetizzazione del rischio, pur in presenza di possibili soluzioni tecniche che andrebbero ad eliminare o ridurre quel rischio, si chiama criminale. Altre spaccature ci sono all'interno della fabbrica, tra i sindacati, da una parte CGL, da una parte CISL e UIL. CGL con posizioni più critiche nei confronti dell'azienda per quanto riguarda miglioramento delle condizioni di lavoro, salute degli operai, inquinamento. CISL e UIL, i cosiddetti sindacati liberi, che per risolvere il problema dei lavoratori cercano la via del dialogo, ma a forza di dialogare rimangono schiacciati sulle posizioni padronali. E allora? E allora? Allora? Allora bisogna boicottare questi comunisti della CGL. Un patto d'intesa tra Montecatini e sindacati liberi prevede che il premio di rendimento agli operai venga concesso solamente in quelle aziende dove la CGL esca sconfitta dalle elezioni. E allora, se lo dice anche il sindacato libero, gli operai operai vanno quadrato intorno all'azienda per difendere il loro posto di lavoro minacciato dalla valle in rivolta. Anzi, c'è da ringraziare l'ACNA che ci ha portato il lavoro. E certo, il lavoro come diritto e non come benevola concessione da parte del padrone. È di là da venire. Allora gli operai diventano i più grandi alleati di un'azienda che li coccola. Corsi di formazione, visite mediche, un'azienda che produce sostanze colorate dal nome complicato, ma che sono la base dello sviluppo e del progresso della nostra civiltà. Sostanze che raddoppiano il peso di frutta e verdura, che colorano di blu i jeans, di giallo la pasta all'uovo, di verde lo sciroppo alla menta, che quando uno dice che siccome il limone è giallo, è normale che la caramella al limone sia gialla. Un'azienda che quando c'è lo sciopero fa entrare la corriera degli operai sin dentro la fabbrica, perché di lavoratori sani e onesti, grazie a Dio, ce ne sono sempre. Ma quando c'è da andare a manifestare contro i contadini che manifestano, l'azienda ti paga a giornata pullman panini, ti telefona a casa, dovessi mai dimenticarti di andarci. Ma dove la trovi un'altra azienda così generosa? E di queste prove di generosità dovrà darne tante altre, perché dopo la crisi del dopoguerra, negli anni 50, boom economico, moltiplicano le produzioni, moltiplica l'inquinamento, le proteste dei valligiani. Dal fiume sale un odore di fenolo che arriva fino ai campi, alle vigne, non risparmia nemmeno quelle fasce di terreno aggrappate su in cima alla collina. Quella peste arriva fin lì, entra nel terreno, attacca le radici, arriva ai grappoli, il vino che ne esce non puoi che restituirlo alla terra. I contadini aprono i rubinetti delle botti e restano lì con i pugni chiusi a guardare quel dolcetto imbevibile, invendibile, mentre scorre giù per i prati lungo il pendio, svanisce e si perde in una macchia scura insieme al lavoro di una vita. Le giovani generazioni abbandonano le campagne. Chi non trova lavoro all'ACNA va a cercare lavoro in città. Alba, Cuneo, Torino, Asti, Savona, un posto vale l'altro. Però c'è chi resta, perché questa è la terra di suo padre, è la terra di suo nonno ed è anche la sua terra. All'inizio si lotta da soli, Roma è lontana. Il governo, invece di colpire chi inquina, manda la polizia contro i manifestanti. I sindaci del Piemonte hanno le mani legate, la fabbrica è in Liguria, di là di uno sputo, ma di là. I partiti politici? Da una parte dicono una cosa, da una parte ne dicono un'altra. In provincia di Savona, sotto il periodo elettorale, sono tutti quanti lì a difendere l'ACNA e i posti di lavoro. In provincia di Cuneo, invece, sono tutti quanti lì a deplorare i danni dell'inquinamento all'agricoltura e alla salute, perché si sa che la politica è fatta di mediazioni e compromessi. Ma tu voglielo spiegare a quegli ignoranti dei contadini che per loro una cosa è bianca o è nera, che per la politica è sempre meglio che sia grigia? Però c'è anche una persona seria, una persona onesta, una persona che lotta, fa politica perché ci crede, un comunista che quando c'era la resistenza si è messo il fucile in spalla e via su per i monti pedalare. Bella ciao che bisogna andare, si chiama Antonio Giolitti. In Piemonte è conosciuto perché è grazie a lui che lo Stato ha finanziato un progetto di 4 miliardi di vecchie lire per far asfaltare certe strade provinciali, che in certe località tu facevi in tempo a morire 10 volte prima che ti venissero a salvare. Antonio è nipote di Giovanni Giolitti, giovane, bello, con l'unità sempre nella tasca della giacca, guardalo lì, nelle piazze di Saliceto, Gorzegno, Corte Emilia, davanti ai cancelli dell'ACNA, sopra i gradini, sopra uno sgabello, a sgolarsi, parlare ai contadini di rinascita. Diritti calpestati, giustizia, mobilitazione dei contadini, il governo intervenga, la Montecatini paghi i danni. Insieme a lui Gino Borgna, uno che queste valli se le pedalate in lungo e in largo, su e giù per le colline, casa per casa, cascina per cascina, a portare notizie, a dire alla gente che c'è la manifestazione, c'è Antonio che parla, bisogna andarci, è importante, bisogna andarci tutti, ma non siete stanchi di essere stufi? Non ci si batte solo per la fine dei danni provocati dall'ACNA, ma anche per la pensione ai coltivatori diretti, il fondo di solidarietà contro il flagello della grandine, la tutela della qualità del vino. Dove vai? Su a 100, c'è Giolitti che parla. Ma sono 40 chilometri, dai che si va lo stesso. Ma c'è una bicicletta sola, dai non importa che si va. Un po' vai avanti tu e un po' vado avanti io. Prendi la bici, pedali per un po', me la lasci sul ciglio della strada. Quando ti raggiungo ci scambiamo e via che si parte. Nelle cascine, nelle stalle, si puliscono i buoi, gli si dà da bere. Oggi sarà una giornata lunga anche per loro. Si attacca il carro lungo, un lenzuolo carico di fieno, due coperte per gli animali, un pezzo di pane per i cristiani, una damigiana di vino al fenolo per far assaggiare ai politici della zona. Vengano, signori, degustazione gratuita. Oggi offre la casa. Mi sembra di sentirlo a me, il rumore dei carri che scendono giù a valle verso lo stradone. Un fiume in piena, uomini, donne, bambini, buoi, carri, macchine, motorini, biciclette. Un vecchio che non c'aveva né i buoi né il carro si è portato il caprone al guinzaglio. Ci sono anche due pullman con dentro la gente di Corte Emilia, anche se i pullman se li sono andati a prendere a Varazze. Perché? Perché nella provincia di Cuneo la prefettura ha minacciato di ritirare la licenza a tutti coloro i quali mettessero a disposizione dei mezzi per la manifestazione. A che cosa vi servirebbero i pullman? Pellegrinaggio al santuario Vicoforte Mondovì. Ed ecco di pullman sulla strada ad arrancare per Cengio. Dentro si ride, si scherza, si improvvisano comici, canzoni, barzellette. Sembra una fiera di paese. Peccato che però nelle fiere di paese non ci sono ogni 3 chilometri posti di blocco di carabinieri e poliziotti che controllano tutto. Bolli, targhe, ruote, morsi, briglie, muli, asini, cavalli. Fioccano multe e denunce per manifestazioni e blocchi stradali. Ma tanta gente così non se n'era mai vista nemmeno in 10 giorni di mercato messi insieme. È il 12 maggio del 1956. La politica di rinascita è appoggiata e capeggiata anche da intellettuali. Beppe Fenoglio, Belso Mucci, alla base un'idea semplice e concreta: risolvere i problemi del territorio per zone e categorie sociali indipendentemente dai colori politici. Finalmente un giorno il direttore dell'ACNA decide di aprire i cancelli a una piccola delegazione capeggiata da Antonio Giolitti, che gli va davanti e gli fa una domanda sola. Gli chiede se la Montecatini è disposta ad attuare un sistema di depurazione che vada ad eliminare l'inquinamento provocato nella valle. Il direttore, come se gli avessero detto che Babbo Natale non esiste, va alla finestra, guarda fuori, guarda fuori, guarda Antonio, guarda fuori. Inquinamento? Quale inquinamento? Io vedo tutto quanto verde. La Democrazia Cristiana tenta di boicottare il movimento, prima ignorandolo, poi denunciandolo, va addirittura nelle campagne a dire ai preti di darsi una mossa, altrimenti questi contadini ci vanno a finire nelle braccia dei comunisti senza timor di Dio. Cisle e Will mettono sul chi va là gli operai, perché se i contadini e i comunisti vanno al potere, qui ci fanno chiudere la fabbrica. Noi vogliamo lavoro e pane, non acqua e fame. L'ACNA va nelle campagne più disastrate ad offrire un posto di lavoro per ogni famiglia di contadini, così che in certe famiglie un figlio prende lo stipendio dall'ACNA, l'altro non riesce a vendere neanche una goccia del suo vino. Novembre 56, carri armati sovietici invadono l'Ungheria. Un pugno sullo stomaco per molti comunisti italiani. Antonio Giolitti strappa la tessera, si dimette dal partito. Finiscono gli anni del movimento di rinascita e per molti sarà anche la fine di un sogno. Molti di quei contadini che stavano lì, sui blocchi stradali, a manifestare contro l'ACNA, verranno emarginati dalla valle, costretti a cercare fortuna altrove. Adesso, per la valle, cominciano gli anni bui. Il servizio idrografico di Genova rassicura tutti stabilendo che le acque del fiume Bormida, sì, sono pure un po' inquinate, ma non a tal punto da provocare danni all'agricoltura, tantomeno alla salute. Nel 1960 il Ministero dei Lavori Pubblici rinnova all'ACNA il permesso di utilizzare le acque del fiume Bormida a fini industriali per 70 anni. 70? Siete sicuri? Io la mia carta d'identità devo rinnovarla ogni 5. 70? Le amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti e Alessandria impugnano la concessione, ma non c'è niente da fare perché l'amministrazione provinciale competente è quella di Savona, la fabbrica è in Liguria, di là di uno sputo, ma di là. Le campane della valle sono un ammorto anche a Cengio, si muore del male brutto che non si dice, ma è brutto davvero perché non lo vedi, si nasconde nei fumi della fabbrica, nell'aria che respiri, nell'acqua del fiume, ti entra dentro a poco, ti scava sotto pelle, finché un giorno non vai a pisciare e pisci sangue. Cazzo, bisogna andare dal medico, non si preoccupi, sarà una cistite, un'infiammazione alla prostata, non siamo mica più giovani come una volta, lei beva tanta acqua, prenda qualche antinfiammatorio, dica a sua moglie di non cucinare piccante per un po', mi raccomando, mi saluti sua moglie che è una cara donna, arrivederci, arrivederci. Arrivederci, dottore, arrivederci, torni a casa. Cominciano i dolori, le fitte, una pugnalata che ti piega in due, ti dicono che devi sforzarti di mangiare, se no non ce la fai. Ma tu di mangiare non hai proprio voglia, finché un giorno non riesci neanche più ad alzarti dal letto per andare a pisciare, e allora resti lì, pregando, bestemmiando che la tua morte arrivi presto, finché hai la forza di farlo, e si va avanti così, di funerale in funerale, sperando sempre che tocchi a qualcun altro e non a te. Altrove ci vuoi fare, non si vede mica di rendita, Poi queste sono cose da studiare scientificamente, bisogna fare analisi, monitoraggi, ricerche. Ci penserà l'autorità competente. Sì, ma mentre l'autorità competente ci pensa, noi potremmo andare a vedere anche chi già ci ha pensato. E allora verrebbero fuori cose molto interessanti. Per esempio si vedrebbe che nel 1895, in base ad osservazioni cliniche, il tumore alla vescica veniva individuato come malattia professionale per chi lavorava i derivati dell'anilina. L'Ufficio Internazionale del Lavoro segnalava... L'Ufficio Internazionale del Lavoro aveva segnalato in una pubblicazione del 1921 l'evidenza incontrovertibile della cancerogenicità delle ammine aromatiche. Nel 1964 l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnalava come cancerogeni occupazionali riconosciuti la naftilamina, la benzidina e vari prodotti della distillazione del carbone e del petrolio. Ora, io non sono un medico, non ho mai studiato medicina, so soltanto che molte di queste sostanze dentro l'acna si lavoravano. E su queste cose non ci si può basare sul sentito dire. Tu ricerche fatte, chissà da chi, chissà quando, chissà con quali metodi antiquati. Anche se dei dati esistono, quei dati vanno studiati, verificati, ristudiati, riverificati con metodo scientifico. Sì, ho capito. Ma l'acna con metodo scientifico l'ha fatte le sue osservazioni. Ha condotto osservazioni mediche interne tra il 36 e il 48, ha visto che su un campione di 202 lavoratori solamente 95 si potevano ritenere in condizioni di salute normali, tutti gli altri soffrivano di forme e lesioni tumorali. Ora, anche se le ricerche e le analisi erano riservate per uso interno, la direzione aziendale si sarà posta il problema di come intervenire sulle tecnologie, sui composti chimici, per andare a ridurre o eliminare le emissioni inquinanti. Allarmismo! Allarmismo! Ma scusa, ma che si finisce di buttare via l'acqua col bambino? Ma se tu hai un coppo rotto sul tetto che ti piove in casa, che fai? Butti giù tutto, ritiri su sin dalle fondamenta? No, e allora? Basterà tenere sotto controllo la situazione, cercare di capire qual è la quantità massima di basi trattenute nelle urine per un certo periodo di tempo senza che si sviluppi il tumore. Voi, il medico di fabbrica che nella scienza ci crede, di queste cose ne sa più di tutti, lui stesso conclude che per avere una risposta convincente bisognerà aspettare anni, anni, anni, anni, anni di continui studi e ricerche. Nel frattempo si va avanti così. Nei reparti più disagiati ci mandiamo a lavorare gli operai più anziani che a fine mese prendono in busta paga l'indennità penosa che qualche riempio in busta paga gli fa sempre comodo. Poi dovesse mai succedere qualcosa, certo che se muore un anziano dispiace a tutti, ma lui la sua bella vita ormai se l'è fatta, e se muore un giovane allora lì sì che è una tragedia. Intanto siamo a posto così, in futuro vedremo. Se viene fuori che una sostanza è ritenuta cancerogena e qualche sindacalista crea problemi, chiede indennità, come se già non ne avessero avute abbastanza, noi che facciamo? La sostituiamo con un'altra sostanza che non è ancora stata studiata sotto l'aspetto della pericolosità, e si va avanti così, tra il tempo che ci mette la malattia a manifestarsi e il tempo che ci vuole a fare le analisi, si va avanti e la produzione continua. Anni 60 e 70 sono anni di balletti di denunce per inquinamento, avvelenamento delle acque destinate ad uso alimentare, decessi degli operai per cancro alla vescica. I sindacalisti della CGL contattano clandestinamente gruppi di operai per sottoporli a visite mediche, vanno a trovarli a casa, gli spiegano perché bisogna farlo. Sì, però poi, se la gente lo viene a sapere, che succede? A me mi hanno appena messo in lista per l'aumento, mio figlio torna a casa dal militare, anche a lui gli hanno promesso un posto in fabbrica. Io la penso come voi, ma alla fine gli operai che danno la propria disponibilità sono veramente in pochi, su 900 lavoratori 500 sono, no, ammalati, e via dicendo, un motivo ci sarà. Comunque alla fine la relazione si conclude con una bella lista di richieste alla Montecatini: miglioramento delle condizioni di lavoro, obbligo da parte dell'azienda di comunicare a un consiglio di fabbrica le sostanze con cui i lavoratori vengono a contatto, passaggio del medico di fabbrica alle dipendenze statali. Signori, stiamo parlando con voi! Subito, si richiedono perizie, si nominano commissioni su commissioni che si formano con la stessa velocità con cui si sciolgono, perché una commissione che si rispetti non deve mai arrivare a conclusioni definitive. Sì, ho capito. Ma inquina o non inquina? Sì, ma no, no, ma sì, insomma sì e no, il dubbio è d'obbligo, col dubbio è d'obbligo anche un supplemento di indagini, col supplemento di indagini è d'obbligo anche un supplemento di finanziamenti. Ho capito. Le conclusioni sono parole, le parole sono vaghe quanto volete, ma le conclusioni sono anche dati, numeri. Andiamo a vedere quei dati, quei numeri, così capiamo com'è la situazione. Sì e no, perché ammesso che i dati ci siano e siano veritieri, si fermano sempre a qualche anno prima, quanto basta per sostenere che prima forse sì, adesso forse no, forse sì, forse no. 1966, Montecatini diventa Montedison. Cambia qualcosa? No. 1969, viene chiuso l'acquedotto di Strevi ed altri pozzi in provincia di Alessandria. 1970, il sindaco di Acquiterme sporge denuncia per avvelenamento di acque destinate ad uso alimentare contro ignoti. 1974, prende il via un'azione penale contro i dirigenti delle, responsabili delle fabbriche responsabili dell'inquinamento della valle. Come va a finire? Che dopo 4 anni vengono tutti quanti assolti con formula piena. Quelli dell'ACNA no, quelli dell'ACNA assolti con formula dubitativa. Che nel dubbio che fai? Verifichi, controlli, ricerchi. No, qui nel dubbio si assolve. Si vede che di tempo se n'è già perso abbastanza. Intanto però c'è anche un prete operaio, Angelo Biglia. Uno che in una tasca tiene la Bibbia e nell'altra il capitale di Marx. Fonda un giornalino, Gente e Fabbrica, Iniziativa di Valore, pochi fogli impaginati a mano in maniera artigianale. Ci fa scrivere medici, chimici, ambientalisti, sindacalisti. Si tenta di spiegare agli operai con parole semplici, disegni chiari, i rischi alla salute, le sostanze che maneggiano lavorando, le iniziative sindacali. Il giornalino viaggia all'interno della fabbrica in maniera clandestina sia da parte di operai liguri che da parte di operai piemontesi. Intanto mamma ACNA gestisce Cengio, cinema, teatro, dopolavoro, biblioteca, spaccio, bar, sportello bancario, sala giochi, campo sportivo da calcio, da tennis, da pallavolo, colonie estive per i figli dei dipendenti, spiagge in riviera per operai e famiglie, il comune di Cengio. E certo, se tu fai carriera in fabbrica, no? Poi ne ricevi benefici e privilegi anche fuori dai cancelli della fabbrica, nella vita di tutti i giorni. E allora ecco che mamma ACNA mette sulle poltrone più importanti gli uomini più fidati. In questo periodo ACNA e Cengio sono la stessa cosa. Il giornalino di Angelo Biglia, dopo 10 numeri, è costretto a chiudere. 1976, poco dopo le 3 del mattino, esplode il reparto cloruro di alluminio. Un'altra notte che scendi giù dal letto col cuore in gola, vai alla finestra a guardare verso la fabbrica, ma fuori è buio, c'è fumo, fai fatica a respirare, chiudi la finestra, ti chiudi dentro, aspetti che passa. Rosetta, attacca la radio e la televisione che diranno qualcosa. Che turno faceva l'Alberto? Non lo so, telefona a casa e chiedi. Santa Madonna bella, questa volta sì che è grossa. Fuori si sentono le ambulanze che corrono avanti e dietro a trasportare i feriti, ma prima o poi finiscono tutte quante con le gomme per terra, perché lì è pieno di detriti, vetri rotti dappertutto. Per fortuna che dopo l'esplosione qualche operaio sindacalista si è precipitato in fabbrica a dare una mano, perché se non conosci bene il reparto non sai neanche dove cercare. Allora si comincia a scavare con le mani nude al buio tra le macerie mentre i pompieri spengono l'incendio. Ma per Alberto e Aurelio non c'è niente da fare. Alla Montedison si affrettano ad insinuare l'ipotesi di attentato. Sempre meglio parlare di attentato che manutenzione e adeguamento degli impianti. Tutta la valle si stringe intorno alle famiglie dei 2 operai morti il giorno dei funerali. Una coda di cittadini, politici, sindacalisti, operai si snoda dalla fabbrica al sagrato della chiesa. Durante la cerimonia funebre i delegati del consiglio di fabbrica chiedono alla Montedison un segnale forte, credibile, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno della fabbrica. In quei giorni non c'è associazione, organizzazione, partito, comitato, comune, maestranza che non invochi chiarezza e giustizia. Poi l'indifferenza, l'ignoranza, la paura, la carriera, il silenzio. 1982, mentre Dino Zoff alza al cielo la Coppa del Mondo, il sindaco di Bistagno, Arturo Voglino, imbottiglia acqua del fiume Bormida per farla assaggiare ai politici della zona, 8 comuni della valle denunciano 4 dirigenti dell'ACNAL Tribunale di Savona. E questa volta succede una cosa interessante, perché il Tribunale di Savona li condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di avvelenamento di acque destinate ad uso alimentare, ma solamente alla morte non c'è rimedio, perché dopo qualche mese il processo passa a Genova in corte d'appello e i 4 vengono assolti. Ma intanto c'è un altro processo in corso importante. Questa volta sul banco degli imputati ci sono 9 dirigenti dell'ACNA e un medico di fabbrica. Questo non è un processo come gli altri. Questa volta ci sono di mezzo gli operai morti per cancro alla vescica. Le famiglie delle vittime e qualche operaio già intaccato dalla malattia si costituiscono come parte civile. Come parte civile, per la prima volta, si costituisce anche il sindacato unito. Le testimonianze di sindacalisti e operai sulle condizioni di lavoro all'interno della fabbrica ti fanno gelare il sangue. Albino Tarditi, uno di loro, fa quasi fatica a trovare le parole e dice: la strada dietro al reparto era chiamata via della morte, perché c'era sempre, giorno e notte, una nebbia di gas, e ogni tanto sui muri, sui tubi, compariva la scritta via della morte. Si prendevano subito provvedimenti per farla cancellare, ma il gas rimaneva. Come si trova adesso il reparto nitrazioni continue dopo tanto progresso? Un reparto di 3 piani con solo 3 finestre al terzo. Quando succede un guasto per rottura di tubazioni, come è successo poco tempo fa, bisogna respirare dalle finestre del terzo piano e poi scendere fuori fino a piano terra per riprendere fiato. Fino all'anno scorso, per scaldare il prodotto solido, si adoperavano dei nylon, mettendo sotto una 15ina di fusti pieni che si scaldavano introducendo vapore sotto il nylon con delle gomme. Quasi sempre c'erano dei fusti rotti, il prodotto fuoriusciva, chi lavorava respirava gas. La lavorazione è stata interrotta per il rifiuto degli operai addetti. In fondo all'aula si sente qualcuno che piange. Sono le mogli, i figli, i fratelli di chi non c'è più. Sono tutti quanti lì, nella compostezza di chi ha conosciuto il dolore. Aspettano. Aspettano giustizia. E ci sarà da aspettare, perché nel frattempo in aula si avvicenderanno ben 3 giudici, i primi 2 colti da malore improvviso, ma finalmente nell'84, quando il processo viene riaggiornato, nel frattempo l'ACNA ha fatto in tempo a parlare con i sindacati, e allora basta fare muro contro muro, che le sorti dell'azienda stanno a cuore a tutti quanti. Siamo nella stessa barca, bisogna remare insieme, sedersi attorno a un tavolo, parlare tra galantuomini, e si vede che di galantuomini ce ne sono proprio tanti nel sindacato unito, perché si ritireranno da parte civile con 50 milioni di vecchie lire in tasca. Poi magari con quei soldi ci compreranno anche un'ambulanza per la Croce Rossa o dei macchinari per l'USL di Cengio. Ma intanto il processo finisce con 8 assoluzioni piene, 2 miti condanne per reati minori. 1986, comincia con 20 ambulanze che corrono avanti e dietro tra Cengio e Savona. Qualcuno ha scaricato del solfidrato di sodio in un serbatoio. Non importa chi, perché ormai tutti devono saper far tutto. Bisogna essere flessibili come i giapponesi. Peccato. Peccato, perché in quel serbatoio era sporco di acido solforico. La reazione chimica produce acido solfidrico. Sottovento ha già raggiunto la distanza di 1 chilometro. Tutti gli operai, investiti dall'esalazione, svengono, perdono i sensi. Il caporeparto sale sulla scala del serbatoio a chiudere il passo d'uomo. Sviene, cade, batte la testa. Rimarrà paralizzato per tutta la vita. E intanto i sindaci della valle denunciano nuovamente l'ACNA, questa volta accusandola di scaricare nel fiume Bormida sostanze inquinanti in concentrazione maggiore da quelle ammesse dalla legge Merli. La legge Merli è una legge del 76 che prescrive limiti di concentrazione di inquinanti presenti negli scarichi. È una legge importante, perché prima di allora si poteva fare riferimento solamente all'articolo 440 del codice penale, che puniva il reato di avvelenamento di acque destinate ad uso alimentare, ma non si parlava mica ancora di inquinamento. Ora, ma con una denuncia del genere, tu pensi di creare un problema a una fabbrica che ha a disposizione l'acqua di un fiume intero? Ma certamente che no. Perché basta diluire gli scarichi con l'acqua di raffreddamento ed ecco che si rispettano le tabelle del signor Merli. Vostro onore, è tutto in regola, l'ACNA non inquina più. Sì, magari Una volta inquinava, ma anche adesso, l'acqua. Ma mica è più nera come una volta, ma ci mancherebbe altro con tutto il decolorante che ci gettiamo dentro. Ma lo sa quanto ci costa? Che poi, abbiamo messo anche due depuratori. Cioè, non funzionano come due orologi svizzeri. Ci sono, nessuno ne parla, che avevamo ragione noi quando si diceva che per risolvere il problema dell'inquinamento ci voleva un bel tubo sotterraneo. Un bel tubo sotterraneo che partiva da Cengio e tran, portava gli scarichi dritti fino a Savona. Lei pensi che non fa in tempo a proporre un'idea brillante di alta ingegneria che questi subito, tac, ti diffidano? Lei pensi che ci hanno detto che spostare l'inquinamento non significa risolverlo? Tu ti dai tanto da fare? Questi qua, invece di ringraziarti, ti denunciano. Ma si ricorda quando si lamentavano e il fiume Bormide è biologicamente morto? Ma mica è uno scherzo per noi tutte le notti, avanti e dietro, dietro, avanti, Cortemiglia, Cengio, Cengio, Cortemiglia, a scaricare pesci vivi d'allevamento nel fiume, che così il giorno dopo la gente li vedeva, anche al bambino, no? Fa piacere, pedagogicamente è istruttivo vedere il pesce vivo che guizza nell'acqua ogni tanto. Peccato però che poco dopo i pesci morivano e noi tutte le notti, avanti, dietro, dietro, avanti, Cengio, Cortemiglia, Cortemiglia, Cengio, a scaricare pesci vivi d'allevamento. Che succede, vostro onore, che purtroppo deformazione professionali, abbia pazienza, ci perdoni. Un nostro operaio una notte, oltre a scaricare i pesci vivi, ha scaricato anche il bidone dell'azienda ittica, no? Il giorno dopo i valligiani hanno visto il bidone che galleggiava, hanno capito che eravamo noi che si preoccupava per il loro benessere, perché la nostra è un'azienda seria, è un'azienda che di buona volontà ne ha a fiumi. Lei pensi che ultimamente ci siamo dati anche un ferreo regolamento interno per cui si scarica solamente di notte, perché magari di giorno qualcuno è più ipersensibile, lo scarico gli può dar fastidio, e in più, vostro onore, questa è una chicca, lo scarico colorato solamente la notte di Natale. Ma siccome gli scarichi colorati noi ce ne abbiamo tanti, che facciamo? Durante l'anno li mettiamo in dei fusti ben sigillati e sottoterra non se ne parla più. Che poi adesso, vostro onore, l'ACNA sta anche attrezzandosi per importare la tecnologia d'avanguardia, l'alga giapponese, che non è come l'alga dell'Adriatico che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. L'alga giapponese è giapponese, metodica, disciplinata, attenta, controlla la scoria con la coda dell'occhio, appena la scoria si distrae, essendo la scoria animale distratto per natura, l'alga come un falco sulla carogna se la punta e tran, se la magna. Ah! Nel 1986, dopo Chernobyl, nasce il Ministero per l'Ambiente, un'istituzione che di tutte queste denunce non può far finta di niente. Cominciano degli scavi e si scopre che sotto la fabbrica di Cengio ci sono stratificate sostanze tossiche per più di 100 anni che sotto forma di percolato si riversano nel fiume Bormida. Ora, per chi non lo sapesse, che una volta lo chiamano perborato, pergolato, l'ho cercato sul dizionario, percolato è un liquame che si crea quando infiltrazioni d'acqua attraversano siti contaminati. Nell'87, ministro all'ambiente un certo Giorgio Ruffolo, esperto di legge ed economia, quindi tutela dell'ambiente non è proprio il suo ambiente, ma non dice che se studi bene legge e economia puoi fare qualsiasi mestiere. Ruffolo, da buon politico, cerca di concertare tra chi la vuole bianca e chi la vuole nera. Presto si accorgerà che non è facile concertare tra chi non vuol sentir ragione. Novembre 87, il Consiglio dei Ministri dichiara la Valle Bormida come area ad elevato rischio di crisi ambientale. Pochi mesi prima della dichiarazione del Consiglio dei Ministri sulla Valle Bormida come area ad elevato rischio di crisi ambientale, anche in televisione si comincia a parlare di ecologia. Il TG2 invita i telespettatori a telefonare qualora venissero a conoscenza di casi di degrado ambientale in Italia. Lillo e Enrico, due giovani della valle, si guardano. Loro nel degrado ambientale ci sono nati, cresciuti e ci vivono. Telefonano alla RAI, che manda una truppa in Valle Bormida a riprendere l'acqua color Coca-Cola. Il servizio finisce in televisione, scocca la scintilla che fa riaccendere il fuoco. La gente prende coraggio, inizia ad uscire di casa, a incontrarsi nelle strade, nelle piazze, nei bar. Nasce l'associazione per la Valle Bormida pulita. Capeggiarla, leader carismatico, Renzo Fontana. Un ragazzo sulla Trentina, temperamento sanguigno, volontà di ferro. Uno che dice pane al pane, è vino al vino. Renzo è uno che ha studiato, è stato a Genova a fare il giornalista all'Unità, conosce bene gli ambienti sindacali e operai, è tornato in valle perché questa è la valle di suo padre, di suo nonno, ed è anche la sua valle. Studia, si informa, si documenta, conosce tutto quello che c'è da sapere sulle produzioni dell'Acna, rischia la salute, inquinamento, fonda un giornalino a Valle Bormida Pulita insieme a lui, la sua compagna ed un gruppo di amici che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità. Bruno Bruna, studente in filosofia, equilibrato, riflessivo, crede nel dialogo e nelle mediazioni. Sarà lui ad andare a parlare con poliziotti e carabinieri durante le manifestazioni. Ilvo Barbiero, ingegnere chimico, l'anima scientifica del movimento. Dio solo sa quante perizie e documenti si dovrà studiare riga per riga, cifra per cifra, formula per formula, perché è uno dei primi a capire che per avercela vinta le sole manifestazioni non bastano. Eliana Barabino, sindaco di Terzo, una donna coraggiosa. Sarà lei a trascinarsi dietro tutti i sindaci della valle nella rivolta, la Rosana del Mulino, che l'acqua del fiume gli ha corroso pure le pale. Lei terrà nel frigorifero di casa sua i campioni prelevati di acqua color Coca-Cola per poi mandarli ad analizzare, attenta che i figli non li bevano. Insieme a loro un gruppo di persone democraticamente unite alla base, senza presidenti o segretari, tutti con lo stesso obiettivo: chiudere l'Acna, sviluppare un piano occupazionale alternativo nel rispetto dell'ambiente per salvare lo stipendio a 700 operai. Da subito hanno tutti contro, tranne Democrazia Proletaria e Verdi. 8 novembre, Monastero Bormida, si deve andare a votare per il referendum. Il 94% degli elettori non si presenta alle urne. Chi ci va scrive: voglio l'acqua pulita. 600 persone sfilano per Cengio al grido: vogliamo l'acqua pulita, vogliamo l'acqua pulita, vogliamo l'acqua pulita, con uno striscione con su scritto: delegazione organizzatrice delle prossime manifestazioni. 20 marzo 1988 è il giorno fissato per la più grande manifestazione mai organizzata contro l'Acna di Cengio. È da settimane che se ne parla, ci si incontra nelle piazze, nelle strade, nei bar, si preparano slogan, striscioni, cartelli. 8.000 persone sfilano per Cengio mentre porta e finestra si chiudono, sembra un'invasione come quella dei film, tutti che chiedono la stessa cosa: chiudere l'Acna, salvare lo stipendio a 700 operai. Quando Renzo Fontana prende il megafono e urla: Acna, carogna, chiudi quella fogna, un fiume in piena di persone come una voce sola si unisce a quel grido strozzato in gola per più di 100 anni. La notizia fa il giro dei TG, ma non succede niente. Intanto però i politici fanno capolino, perché ormai le televisioni ne parlano, i giornali ne scrivono, non si può mica più far finta di niente. E allora il ministro della sanità Carlo Donat-Cattin è costretto ad andare a Bossolasco per un incontro con i vertici dell'Acna e i sindacati. I sindaci della valle sono rimasti fuori dalla palazzina a manifestare con i valligiani. Acna chiusa è il grido che accoglie l'arrivo dei tre dirigenti dell'Acna mentre sfilano davanti alla folla con abbigliamento impeccabile, aria distinta, valigetta di cuoio in mano, giornale sotto braccio. Poco dopo arriva la macchina blu onorevole del ministro che viene da Roma, quello importante che ha due cognomi come i nobili. Donat-Cattin scende dalla macchina e si avvia verso la palazzina. Nel frattempo, tra la folla in soggezione, scende il silenzio. Una donna dalle retrovie urla: signor ministro, signor ministro! Più che un urlo, era una supplica, una preghiera. Donat-Cattin tira dritto, impassibile. Altri si aggiungono alla supplica, ma nel frattempo il ministro è riuscito ad afferrare la maniglia della porta, la spalanca. Questo gesto sembra quasi rassicurarlo, perché di scatto si volta verso la folla e come un leone ruggisce: non rompetemi le palle! La riunione di Bossolasco finisce in una rissa tra il ministro Donat-Cattin e il senatore socialista Visca. Ognuno scarica il barile sull'altro. Donat-Cattin dice a Visca che le responsabilità sono del suo collega socialista Ruffolo, ministro all'ambiente. Visca dice: no, le responsabilità sono le sue, ministro alla salute. E questa è come è andata la chiacchierata tra questi due galantuomini, con parole che possono ascoltare anche i bambini. Alla fine della riunione Visca lo saluteremo, perché se ne andrà a Santo Domingo, inseguito dalla magistratura curiosa di quei 160 miliardi elargiti dalla società Ecologia per mandare a buon fine il progetto di decolorazione degli scarichi dell'Acna. Donat-Cattin invece uscirà dalla palazzina e verrà accolto da una bordata di fischi da parte dei valligiani, che erano rimasti lì fino a notte fonda perché volevano vederlo in faccia, il ministro dalle palle rotte. E allora Donat-Cattin, prima di risalire sulla sua macchina blu onorevole per tornarsene a Roma, si concederà alla folla esibendosi nel celebre gesto dell'ombrello. Peccato che le sue parole non si siano potute ascoltare, altrimenti sarebbero rimaste impresse nell'educazione civica dei valligiani. 2 giugno, si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia, in maglia rosa c'è Podenzana che controlla gli attacchi di Chioccioli, staccato a 45 secondi, il gruppo è partito da Parma, 229 km in pianura prima di affrontare le grandi montagne, allora testa bassa e pedalare che siamo già quasi arrivati ad Alessandria. Intanto, dalle radioline, arriva la notizia che a 5 km dall'arrivo ci sono 2000 persone che bloccano la strada. L'organizzazione del patron Torriani va nel panico. Chi sono questi qua? Che cosa vogliono? Dicono che ci sono 140 chilometri di fiume morto. E allora? Io ho 229 chilometri di tappa. Sono i valligiani, arrivati fin lì con i pullman. Appena scesi, si sono trovati davanti una transenna presidiata da un solo carabiniere che ha detto: qui non si passa! Si sono guardati. Erano in 2000. E noi passim gli stessi. Ed eccoli lì, in mezzo alla strada, come un gregge al pascolo. Subito Bruno Bruna, un altro sindaco della valle, vanno a dire all'organizzazione che loro non vogliono bloccare il Giro d'Italia. Vorrebbero solamente qualche secondo di diretta televisiva per leggere un comunicato dove si chiede la chiusura dell'Acna di Cengio. Nel frattempo il patron Torriani è andato nel panico. Ha sospeso la gara. La diretta televisiva non verrà concessa, ma saranno poi i giornalisti a dire chi erano queste persone, che cosa volevano e perché oggi sono venute qui. Oggi hanno vinto i valligiani. E sulla statale ci si ritorna ancora con una carovana di pullman. Questa volta si va a Torino a cantarla a quelli della regione Piemonte. Si scende in piazza Castello, si imbocca via Alfieri, dal cielo viene giù acqua a Catinelli. I negozianti abbassano le saracinesche come quando passa un carro da morto. Più che un gesto di rispetto, questa volta è un gesto di paura. Palazzo Lascaris, appena vede 300 persone avvicinarsi, chiude subito i portoni lasciando tutti quanti fuori sotto la pioggia. Dopo un po', la signora Elettra, assessora all'ecologia, invita ad entrare un paio di rappresentanti, tra cui Renzo Fontana, tutta dispiaciuta, mortificata, che oggi a Torino piove, nel palazzo non c'è posto per 300 persone. Magari qualcuno potrebbe anche andare in qualche bar a prendersi una pasta, un cappuccino. Una piccola delegazione potrebbe anche entrare. Renzo Fontana è bagnato fradicio, non ce n'ha voglia di stare ad ascoltare le parole della signora Elettra. Gli dice che non c'è problema, se noi non possiamo entrare, si metta una giacca a vento ed esca fuori lei. Non l'avesse mai detto. Per incanto i portoni di Palazzo Lascaris si aprono per magia, il palazzo si concede in tutti i suoi lussi, ori e allori, ringhieri in ferro battuto, lampadari, soffitti dipinti, ritratti alle pareti. Si trova posto per 300 persone comodamente sedute nelle poltroncine di velluto, ma appena la signora Elettra comincia a parlare, le sue parole sono talmente spente che se anche il fiume Bormida scorresse lì dentro non si sentirebbe neanche l'odore. E a Torino ci si ritorna ancora, questa volta però via Alfieri è spaccata a metà, da una parte valligiani, da una parte operai, ci si urla contro la propria rabbia sotto il sole a picco sull'asfalto cocente, mentre intanto a Palazzo Lascaris i politici comodamente seduti sulle poltroncine di velluto al fresco dell'aria condizionata stanno discutendo che più che una guerra tra poveri, come dicono i giornali, è una guerra tra vittime, perché c'è qualcuno che ha interesse che nulla cambi. Sabato 23 luglio 1988 è un'estate torrida. Quel giorno a Saliceto l'afa si fa sentire sin dalle prime ore del mattino e il cielo è strano, il sole è coperto da una nube biancastra. Ma Caia, ma se scendi in strada l'aria ha l'odore dell'inferno, ti bruciano gli occhi, la gola ti si chiude in un nodo, prima la tosse, poi le convulsioni, ti chiudi in casa, aspetti che passa, telefoni agli uffici comunali, la linea è occupata, e certo stanno telefonando tutti quanti, ma anche se fosse libera nessuno sa niente, solamente l'ACNA sa della fuga di anidride solforosa del reparto Oleum, se ne guarda bene dell'avvisare le autorità, la protezione civile. Proprio adesso che Ruffolo ha chiesto la chiusura cautelativa dell'ACNA per 6 mesi, manca solamente la firma di Don Accattenne, che per carità, quello è un uomo tutto d'un pezzo che mica si fa tirare per la giacca. Ma qui dovesse la faccenda andare a finire su giornali e televisioni, va a finire che quello è costretto a firmare e qui si va tutti quanti a casa per 6 mesi. Intanto la gente si è riversata nelle piazze, nelle strade, improvvisano assemblee, comizi, si decide di andare a vedere a Cengio, che il problema non può che venire da lì. Si salta in macchina, si parte, arrivati a Cengio, Cengio è deserta, bar chiusi, negozi chiusi, nessuno per strada, solamente i carabinieri. I valligiani decidono di organizzare una manifestazione per l'indomani. L'indomani si riparte, si salta in macchina, la statale è bloccata da un corteo di macchine che punta in direzione Cengio, ma arrivati lì, sul confine tra Liguria e Piemonte, a Pian Rocchetta, La statale è bloccata da un cordone di poliziotti e carabinieri. A Cengio non si entra, la gente non sa che fare. Qualcuno dice: ma perché Don Accattè non firma? Ma che gli manca? La penna? Renzo Fontana, appena sente questa frase, sale sul piano di carico di un camioncino e comincia ad urlare: signori, Rufolo ha chiesto la chiusura cautelativa dell'ACNA per 6 mesi. Manca solamente la firma di Don Accattè. Chi offre una penna per il ministro? Non fa in tempo a finire la frase ministro che già arrivano un centinaio di penne di forme e colori diverse. E allora, se a Cengio non si può entrare, si fa dietro front. Ci si va a tirar dietro la gente del basso Piemonte. Si salta in macchina, si arriva ad Acqui Terme, si parcheggia, si sfila per la città a chiedere una penna per il ministro. A fine giornata si saranno raccolte più di 5.000 penne che, messe in degli scatoloni, verranno portate poi da bambini scortati da carabinieri davanti l'ufficio di Alba del ministro Carlo Don Accattè. La sera successiva ci si riposa un po'. Dopo 3 giorni di tensione c'è bisogno di rilassarsi. A Corte Emilia si organizza una festa per la Valle Bormida pulita. C'è bisogno di divertirsi, c'è bisogno di fare un po' di soldi per l'associazione. Sul palco c'è Tito Schipa Junior che canta e che suona. La gente mangia, beve, balla, si diverte, ma la testa è a Roma. Perché è a Roma che si sta consumando il vertice interministeriale tra il presidente del Consiglio De Mita, il ministro dell'Ambiente Ruffolo, della Sanità Don Accattè, e l'Industria Battaglia. I quattro cercano di concertare intorno alla chiusura cautelativa dell'ACNA, ma a notte fonda non sono riusciti ancora a prendere nessuna decisione. Appena a Corte Emilia arriva la notizia che giù a Roma, a mezzanotte arriva la notizia a Corte Emilia, che giù a Roma hanno rinviato la riunione, si forma un brusio tra le persone che sovrasta la musica di Tito Schipa, il quale capisce che la festa è finita e se ne torna a casa. La gente decide di andare a manifestare ad Alessandria, si salta in macchina, in tutti i paesini che si attraversano si fa il giro del centro a tirar giù la gente dal letto, si forma un corteo di macchine che sembra la processione per i morti di Veleno di 100 anni. Si arriva alle 4 del mattino ad Alessandria, sotto la sede della provincia, della prefettura, a tirar giù dal letto vice sindaco, vice prefetto, che non riescono a gestire la situazione. Intanto gli altri sono ancora nei paesini a chiamare rinforzi, bar, officine, negozi appena aperti, abbassano le saracinesche, via che c'è da andare. Intanto ad Alessandria si è fatto giorno, continuano gli incontri tra amministratori di comune, regione, provincia. C'è un filo diretto con Roma, dove si sono riprese le trattative dopo 15 ore di assedio. Arriva la voce del sindaco che promette le sue dimissioni se l'ACNA non verrà chiusa. La regione Piemonte promette vagoni speciali per andare a manifestare a Roma. I valligiani se ne tornano a casa esausti. Nei giorni successivi, in ogni porta di ogni paesino della valle si appende un foglio con di fianco una matita legata da uno spago, perché così almeno chi vuole può scrivere il proprio nome e prenotando il posto per andare a manifestare a Roma. Appena in valle arriva la notizia che giù a Roma hanno deciso una chiusura di 45 giorni in agosto, poco più che una chiusura per ferie, in quei fogli non trovi neanche più lo spazio per mettere la tua firma. In quei nomi in fila come i grani di un rosario c'è la storia della valle. L'indomani si parte per andare a manifestare a Roma con 22 pullman, 3 vagoni speciali. La valle è deserta, chi resta in valle scrive uno striscione appeso tra due palazzine con su scritto: la Valle Bormida vi ringrazia. Nei giorni successivi la popolazione si mobilita contro la riapertura dell'ACNA. L'11 settembre 8.000 persone sfilano per Cengio, il 19 settembre l'ACNA riapre. Le campane della valle suonano a morto. Renzo Fontana, altri valligiani si vanno ad imbavagliare, incatenare davanti la stazione di Cengio per far sentire la loro voce anche in quel silenzio. Si prenderanno gli insulti di tutti i cengesi. A fine giornata Renzo dirà ai giornalisti che è una vergogna come si pensi di risolvere un inquinamento di 100 anni con solamente 45 giorni di chiusura cautelativa. 15 sindaci della valle si dimettono. Intanto però non è che non sia stato fatto niente, perché intanto il Ministero dell'Ambiente, l'ACNA e i sindacati hanno pensato al futuro della valle e allora hanno sottoscritto di reciproco accordo un progetto per realizzare un impianto di incenerimento di rifiuti chimici industriali a Cengio rivolto al risanamento ambientale. Piano, piano. Un impianto di incenerimento di rifiuti chimici industriali volto al risanamento ambientale? Ma non è un po' come dire Costruiamo armi di distruzione di massa volte alla pace nel mondo. I soliti malfidati. Ma questo è il Resol. Recupero solfati, impianto ecologicamente compatibile con l'ambiente. L'idea è appoggiata anche da una larga schiera trasversale di politici illuminati della Prima Repubblica che, appalti di queste dimensioni, ci piacciono. Le grandi opere, gente di larghe vedute, mica dei meschini come quegli ambientalisti ecologisti valligiani manifestanti che pensano che il mondo inizia a Saliceto e finisca a Corte Emilia, poi soprattutto adesso che si sono messi a far baccano e non si può neanche più scaricare nel fiume come prima. Avere la concessione per smaltire i rifiuti nell'aereo sarebbe proprio una mano santa, e allora ecco che il Resol diventerebbe l'affare del secolo. Perché? Perché basta riconvertire i macchinari ormai obsoleti della fabbrica nel business dei rifiuti ed ecco che la montagna di veleni di cengio diventerebbe una miniera d'oro. Poi vuoi che non trovi qualcuno in Italia, in Europa, disposto a mandarti i suoi di rifiuti? I solfati recuperati si possono vendere all'industria del vetro e della detergenza, e poi verrebbe anche da pensare. Ma se i rifiuti tossici girano con una certa facilità, cosa impedisce a componenti di armi chimiche che non si differenziano tanto da rifiuti tossici di girare con quella stessa facilità? Una volta che hai messo tutto in dei bidoni ben sigillati, una R di rifiuti stampata sopra, gli incartamenti sono in regola? Ma chi ci va a guardare quello che c'è là dentro? Ed ecco allora che il Resol diventerebbe l'affare miliardario del secolo. L'Acra non perde tempo, trasmette subito una scheda tecnica alla regione Liguria per farsi appoggiare l'inceneritore, che loro si incazzano se lo chiami inceneritore, e ti denunciano perché si chiama Resol, recupero solfati, impianto ecologicamente compatibile con l'ambiente. Abbiate pazienza, ma se per recuperare i solfati tu devi incenerire i rifiuti, ma viene o no da chiamarlo inceneritore? 21 sindaci della valle si dimettono. Intanto lo Stato paga 2 miliardi di vecchie lire per una fotocopia. È un po' cara, che se andava in una cartoleria al massimo avrebbe speso 50 lire. Ma lo Stato no. Lo Stato commissiona all'Ansaldo per 2 miliardi di vecchie lire un piano di risanamento ambientale per la Valle Bormida. L'Ansaldo prende 2 miliardi, fa la fotocopia del piano di risanamento ambientale del bacino dell'Ambro sviluppato qualche anno prima, che si vede che gli era venuto particolarmente bene, cambia il nome Lambro Bormida, qualche altro dato eclatante e lo dà allo Stato. La menzogna viene immediatamente smascherata dal giornalino Valle Bormida Pulita di Renzo Fontana, che questi qui ormai hanno imparato a leggere e a scrivere, non sono mica più ignoranti come una volta. A Cairo Montenotte tre ex dirigenti dell'ACNA sono sotto accusa. Perché ex? Perché ormai la Montedison si è fatta furba. Quando un suo dirigente viene messo sotto processo, lei lo sposta subito di mansione, così in caso di condanna, più che l'azienda, viene condannata la persona. Il pretore Giuseppe Dagnino, un tipo metodico, scrupoloso, uno con la testa dura di quelli che quando si impuntano tu non lo smuovi nemmeno con le cannonate, fa rifare tutti quanti i campionamenti e le analisi. L'aula trabocca di gente, la sentenza taglia l'aria come una lama. Tre condanne. Ed è una liberazione di abbracci e di lacrime che non si riescono più a trattenere. Giustizia è fatta. E ora la rinascita della Valle Bormida le riprova tutte. Convegno a Savona, Ilvo Barbiero, da battaglia all'ACNA, a suon di dati, numeri, tabelle, schede, mentre un certo Edo Ronchi prende appunti. Ricordiamoci Edo Ronchi, 7.000 persone sfilano per Cengio, 15.000 firme vengono raccolte per il Parlamento europeo, ci si va ad incatenare davanti agli uffici della USL a ricordargli che ogni tanto i controlli agli scarichi dell'ACNA vanno fatti, si arriva anche a Sanremo a mettere sulla giacca di Gino Paoli i cappellini di Albano e Romina, il messaggio Valle Bormida pulita, ma è come spostare un carro armato. Perché? Perché nel frattempo il Comitato Tecnico Ambientale della Regione Liguria ha appoggiato il Resol giudicandolo ecologicamente compatibile con l'ambiente. Manca solamente la firma del sindaco di Cengio e cominciano gli scavi. Ma chi è il sindaco di Cengio? Sergio Gamba, dipendente dell'ACNA. Per Sergio è tutto in regola. L'ACNA non inquina più. Ci sono anche le mura di contenimento del percolato, poi quei bidoni con i rifiuti sotterrati. Bisogna vedere se esistono veramente. L'ACNA rappresenta un'opportunità di emancipazione e progresso per la valle. Poi questi piemontesi che vengono sempre qui a manifestare, per carità lo fanno in buona fede, ma che se ne stiano a casa loro, perché va bene che I cengesi hanno un'innata predisposizione per l'ospitalità, ma non bisogna mica approfittarsene. Sembra strano che un sindaco che ha la responsabilità di controllare che un'azienda rispetti la legge sia anche dipendente di quella stessa azienda che lui stesso debba far controllare. Ma per Sergio è tutto in regola, perché basta avere bene in mente delimitato il proprio ruolo, da una parte sindaco, da una parte dipendente, e allora delimita anche l'assessore all'ecologia, da una parte assessore, da una parte dipendente, e delimita anche il responsabile USL, da una parte responsabile, da una parte dipendente. Delimita tu che delimito io. L'ACNA controlla se stessa e cominciano gli scavi, ma quando ti metti a scavare tra tonnellate di rifiuti il rischio che qualcosa viene fuori c'è sempre. In effetti qualcosa accade 19 aprile in valle, sono tutti davanti alla televisione, c'è il Milan di Sacchi contro Real Madrid, semifinali di Coppa dei Campioni. Quella sera Renzo Fontana riceve una telefonata anonima, è un operaio dell'ACNA, è successo qualcosa di grave subito fuori dalla fabbrica verso il fiume vicino allo scarico, non c'è tempo da perdere. Renzo avvisa i carabinieri, l'USL di Carcare, che vengano a fare un sopralluogo, poi scende giù al circolo a chiamare gli amici dell'associazione, ancora un paio di telefonate e 20 persone sono già pronte a partire. Che se è successo qualcosa di grave tu ci puoi scommettere, domani mattina le prove non le trovi già più. Ci sono anche due sindaci, Eliana Barabino di Terzo, Sauro Toppia di Perletto, e allora via tutti in macchina fino a Piarrocchetta e poi giù a piedi per lo sterrato, sotto le case abbandonate, ancora lungo la scarpata, mentre la torcia elettrica fruga nel buio che non si vede niente, si sentono solamente il fango, i sassi sotto i piedi, le spine dei rovi che si aggrappano alle gambe, alle braccia, quell'odore sempre più forte, sempre più nauseante, odore di acqua e morte. Ma ecco che ci siamo, si sente il rumore del fiume che scorre, c'è anche un altro rumore, non lo sentite? Di là, dallo scarico, da questa parte, venite presto, lo sentite adesso? È come un rantolo meccanico, la puzza si fa sempre più insopportabile, dammi la torcia. Un fascio di luce inquadra una pompa traballante che sta risucchiando del liquido da una buca e lo sta trasferendo dentro le mura di cinta dell'ACNA. La buca è enorme, si vede che l'hanno appena scavata con le ruspe, lì dentro c'è un lago rosso che gorgoglia in un vortice di schiuma, un lago osceno. Ma quello è il percolato, sta uscendo fuori il percolato, speriamo che arrivino subito i carabinieri a mettere tutto a verbale. Eccoli i nostri, eccoli i carabinieri che arrivano, ma non vengono dalla statale, scendono da una scaletta a pioli delle mura di cinta dell'ACNA. Non importa che dovessero pure piovere dal cielo, l'importante è che siano arrivati, venite che vi facciamo vedere. Ma i carabinieri non vogliono vedere niente, ritirano i documenti a tutti, 9 persone del gruppo se le portano addirittura in caserma, e in caserma ci resteranno per tutta la notte. Voi altri, domani mattina andate pure a ritirare i documenti che vi abbiamo sequestrato alla portineria dell'ACNA. Non faccio lo spiritoso, signor Fontana, a chiedere se l'ACNA è diventata la filiale della caserma dei carabinieri, che non c'è niente da ridere. Siete schedati, ora via, a casa. E via, è tardi, non è un posto per starci la notte. No. E noi si rimane. Perché qualcuno dovrà pur venire a vedere quello che sta succedendo. E le prove non devono sparire. Servono sacchi a pelo, tende da campeggio, si fa la guardia a turno mentre qualcuno va giù in paese a chiamare i rinforzi. È la prima notte di presidio sul greto del fiume, e questo dà fastidio perché la buca c'è da ricoprirla, i lavori devono andare avanti, che mica si può star lì a lavorare se questi ti stanno col fiato sul collo che appena salta fuori qualcosa si attaccano al telefono e chiamano qualcuno. Passi per l'USL i carabinieri che conoscono la situazione, sanno come muoversi, ma se questi chiamano giornali, televisioni, qui succede un polverone. Peccato che sia un luogo pubblico, se no si faceva sgombrare in 448. L'indomani tutte le macchine dei piemontesi parcheggiate a Piarrocchetta hanno le gomme tagliate, che se la sono cercata, così imparano la prossima volta a starsene a casa loro, gli serva da lezione. Ma quelli non se ne vanno, 31 giorni, 31 notti il presidio continua, si resta lì tra quelle pozze d'acqua rossa al freddo, con l'umidità che ti entra nelle ossa, che qui ad aprile, porco Giuda, non fa altro che piovere, con quelli dell'ACNA che ti controllano ogni passo che fai dalle mura di cinta. Una tenda viene attrezzata per la cucina, un'altra adibita a magazzino, poco più avanti c'è il falò. Si costruisce anche una tettoia di assi, cordi, nylon, il punto di ritrovo dove ci si sta anche in più di 50 a raccontarsi le ultime novità. Qualche volta salta fuori una chitarra, una fisarmonica, qualcuno porta frittelle, salame, una processione di gente da tutta la valle. Persone di ogni età, professione, livello sociale, tutti quanti lì insieme, vengono anche dai paesini dell'Alessandrino, Cassine, Borgoratto, Castellazzo, Bormida, tutti quanti insieme. Qualcuno porta viveri e coperte, qualcun altro porta del salame, qualcuno viene a dare il cambio a un compagno, qualcuno mette su uno striscione. Non siamo ambientalisti, Viviamo in Valle Bormida, poi succedono delle cose. Provate ad immaginare un manipolo di anziane signore democristiane fino al midollo sedute sui sassi del fiume ad inveire contro l'Acna fino alle 4 del mattino, e arrivano anche le televisioni a riprendere l'acqua color Coca-Cola. Viene Federico Fazzuoli con la truppa di Linea Verde, lì, sul greto del fiume. Don Vincenzo glielo dice chiaro e tondo che ormai lui è costretto ad educare i ragazzi ad andare contro le istituzioni, perché la legge in valle è assente. Poi tutti gli altri, Lubrano, Santoro, servizi, dibattiti, inchieste, a forza di star lì a girare e rigirare su quel fazzoletto di terra che ormai non è più terra, qualcuno si accorge che non c'è solo il percolato, ci sono anche delle canaline di ghiaia che scaricano direttamente l'acqua dei lagunaggi sul fiume senza passare dagli scarichi principali, perché quelli sono soggetti alla legge Merli. Domenica, Don Pierpaolo celebra una messa sul greto del fiume, perché acqua e aria sono un dono di Dio, inquinare è peccato. L'altare è un tavolo da campeggio, tra le tende e il veleno ci sono i carabinieri e le telecamere. Perché i carabinieri? Perché dalla strada che sale dal fiume stanno appollaiati operai e sindacalisti pronti a prendere a spintoni e insulti ogni piemontese che passa, e al don glielo gridano chiaro e tondo di piantarla lì, di fare il pagliaccio, tornarsene in chiesa, che quella messa sul greto del fiume è una provocazione bella e buona. Il sindacato chiede che la direzione aziendale faccia rispettare il diritto dei lavoratori a lavorare in sicurezza senza il continuo pericolo di sabotaggi, umiliazioni e insulti durante lo svolgimento dei propri compiti. Se la situazione di disagio dovesse perdurare, gli operai sapranno come salvaguardarsi. La direzione aziendale sa come muoversi. D'accordo con il sindaco e con il sindacato, per il giovedì ha organizzato un'assemblea pubblica presso l'ACNA. Sono giorni che ci metti poco a scaldare gli animi, basta dire una certa parola con un certo tono che 80 persone si staccano dall'assemblea, puntano dritte verso il presidio. Che fortuna quel giorno a fermarle lì a Pianrocchetta sul bivio per scendere al fiume c'erano le forze dell'ordine, perché giù al fiume ci sono i bambini di una scuola elementare. Ma il tipo col megafono dà appuntamento a tutti per l'indomani, perché il presidio in un modo o nell'altro verrà sgombrato. Domani la notizia fa il giro della valle, anche i giornali ne parlano e dicono che oggi succederanno dei pasticci, è subito chiaro che laggiù sono in pericolo. Ma chi c'era ieri al presidio? Non lo so, una cinquantina di persone, ma molte sono donne, c'è da andare. I primi valligiani arrivano su a Pianrocchetta intorno a mezzogiorno, ma in cima alla salita, poco dopo la Madonnina, provate ad indovinare? La statale è bloccata da un cordone di poliziotti e carabinieri. Il bivio per scendere al fiume è al di là del cordone, si prova a parlare con le forze dell'ordine, ma non c'è niente da fare, perché hanno ricevuto ordini, chi viene da Cengio può scendere al fiume, chi viene dalla valle no. Ecco come si costruisce un problema di ordine pubblico a tavolino, un problema di ordine pubblico che giustifichi un'ordinanza di sgombero da un terreno demaniale. E cosa succede laggiù non lo sa nessuno, si vede solamente la gente di Cengio andare avanti e dietro, ma laggiù sono come topi in gabbia. Ma misericordia di Dio, fate qualcosa, che laggiù li ammazzano tutti. I poliziotti e i carabinieri non si muovono di un centimetro, hanno ricevuto ordini, niente. Nel pomeriggio arrivano un altro cordone di poliziotti che si mettono a protezione dell'altro cordone. Niente, finché dalla strada che sale dal fiume non sbuca fuori una macchina, quello che resta di una macchina. Gli hanno spaccato i vetri, la carrozzeria cade a pezzi, il cordone si apre, la fanno passare dalla parte dei piemontesi, scendono tre persone, due uomini e una donna, il viso sconvolto, gli occhi sbarrati, la donna il vestito a brandelli, graffi su tutto il corpo, riprende fiato con un grido strozzato in gola. Laggiù li ammazzano tutti, è laggiù che bisogna andare. Cade per terra con la bocca sull'asfalto, i poliziotti e i carabinieri non si muovono di un centimetro, qualche piemontese prova a scendere al fiume tagliando per la ferrovia, ma non si passa neanche di là, altri si buttano giù per la scarpata come bestie selvatiche, mentre gli spini e i rovi gli strappano via i vestiti, la pelle, ma è l'unico modo per scendere giù al fiume. Arrivati sul ponticello, trovano le sentinelle mandate dall'ACNA a fermarli. Finalmente scendono anche i carabinieri, ma solamente per andare a riprendere quella trentina di piemontesi che avevano cercato la via del fiume. Sono le 3 di notte, quando la squadra antisommossa del supercarcere di Cuneo avanza in assetto da guerra. La carica dura pochi secondi, il tempo di fare a pezzi le tende, colpire tutto ciò che si muove. Qualche donna si salva dalle manganellate alzando le braccia e urlando che è incinta. Tutti gli altri sono distesi accanto al falò. Cantano Viva l'Italia di De Gregori, uno ad uno, di peso. Verranno presi, caricati sul furgone e riportati sulla statale. Il presidio è finito, ma la gente non se ne va. Sul fare del giorno, Arrivano altre persone, dalla statale salgono anche una decina di trattori. Sembra che tutta la valle sia su quella striscia d'asfalto. Vogliono tornare giù a ripresidiare il fiume, controllare gli scarichi. Ma non c'è niente da fare, perché la statale è bloccata da un triplo cordone di poliziotti in assetto da guerra, con tanto di manganelli, scudi, caschi, visiere abbassate, dietro, furgoni, sopra, altrettanti poliziotti. Per passare di lì ci vorrebbe un carro armato. E allora si resta in attesa, a guardarsi, occhi negli occhi, occhi stanchi, occhi vuoti, l'attesa che qualcosa accada. Nel pomeriggio un cordone di poliziotti va a chiudere la strada a valle dove finisce la folla dei manifestanti. Così che rimangono intrappolati i manifestanti tra due cordoni, non possono più andare né avanti né indietro. Ma che fanno laggiù? Perché chiudono la strada anche da quella parte? Lì si resta in attesa. Un'attesa senza movimento. L'attesa che qualcosa accada. All'improvviso qualcosa accade. Quattro spari, due a destra, due a sinistra, il segnale, la polizia attacca, è una grandinata di manganellate, calci nell'inferno dei lacrimogeni, il cielo non c'è più, o se c'è non si vede, non sai neanche dove stai andando, la polizia è dappertutto, è un rincorrersi di mani che si cercano, voci che si chiamano, Deborah piange, suo papà sta sanguinando, non piangere Deborah, tra poco finisce tutto, uomini, donne, bambini, non importa. Finalmente il cordone a valle si riapre, qualcuno ha deciso che per oggi può bastare, una lenta processione di gente se ne torna a casa, ancora una volta umiliata, ma l'indomani torneranno di nuovo tutti quanti lì, su quei pochi metri di asfalto bollente, stremati, senza neanche più la forza di urlare, con davanti i poliziotti armati fino ai denti. Ma vogliono tornare giù, a ripresidiare il fiume, controllare gli scarichi. Siamo nell'aprile dell'89. È passata un'ora e mezza. Per i valligiani sono passati più di 100 anni, ma la battaglia non è ancora finita, perché ci sono altri 10 anni di lotta tra TAR, USL, NAS, regioni, ministeri, parlamenti, assessorati, professorati, laboratori del Missouri in America, Craxi, Raul Gardini. Perché? Perché c'è chi l'ACNA la vuole aperta e chi l'ACNA la vuole chiusa. ACNA chiusa, ci sarà da aspettare, Perché l'USL di Savona, per eseguire le analisi chimiche dei lagunaggi, ci impiegherà 7 mesi e nel frattempo le sostanze volatili volatilizzate. Ma alla fine l'USL dichiarerà che dal camino principale del Resol uscirà diossina. Campioni di percolato vengono mandati ad analizzare anche dall'USL di Aqui nei laboratori del Missouri in America. Gli americani risponderanno che dalle analisi si riscontra una concentrazione di diossina migliaia di volte superiore alla soglia limite. Viene confermata in appello la condanna contro i 3 ex dirigenti dell'ACNA per inquinamento. L'azienda condannata a risarcimento danni. La regione Piemonte boccia il Resol. Il TAR Ligure lo dichiara inceneritore. ACNA aperta. L'ACNA, che durante un periodo di chiusura cautelativa, senza nessuna autorizzazione, riprende a sorpresa le produzioni. L'assessorato all'ambiente della regione Liguria, con i dati gentilmente offerti dall'ACNA, appoggia il Resol. Ruffolo va in televisione e dichiara che le analisi che parlano di diossina sono inattendibili. I NAS sequestrano tutto. L'ACNA, ancora una volta senza nessuna autorizzazione, commissiona alla ditta Lurgi, una ditta che nella seconda guerra mondiale produceva forni crematori, un inceneritore per 70 miliardi di vecchie lire, che diventeranno 500, fino ad arrivare a 1200 miliardi con il piano di risanamento appoggiato dai socialisti. I dati delle pubblicazioni tossicologiche dell'ACNA a numeri confermano che il Resol inquina, ma a parole si mente. Ruffolo, uomo di parola, va alla Camera e dice che il Resol non inquina, e sorgerà a Cengio, si beccherà una denuncia per falso alla Procura di Roma. L'assessore alla sanità della regione Piemonte presenta i risultati di un'indagine svolta all'Università di Torino, quelle costate centinaia di milioni, fatti dagli scienziati, che affermano che in Valle Bormida si scoppia di salute. L'alta mortalità per cancro è legata alla cattiva alimentazione dei valligiani. L'assessore da qui a breve sarà arrestato per lo scandalo degli appalti sugli ospedali regionali. Per quanto riguarda la cattiva alimentazione dei valligiani, forse bisognerà farla finita con i ravioli al plin. Saranno quelli che fanno male. Intanto a rimetterci e a pagare per l'irresponsabilità dei vertici dell'azienda sono sempre gli stessi. Da una parte gli operai che hanno mogli, figli a casa si mobiliteranno in centinaia con i pullman per andare a manifestare a Roma, mogli e figli bloccheranno strade statali, autostrade, ferrovie, scontri con le forze dell'ordine, dall'altra parte i valligiani. Il 94% dei cittadini di 41 comuni della valle voteranno no al referendum sull'inceneritore. Prima 5.000, poi 10.000 persone sfileranno per Cengio, tra loro sindaci dimissionari, sindacalisti dissidenti, demoproletari, Verdi, WWF, Legambiente, Greenpeace, Pro Natura. Sono anni di scontri e minacce tra liguri e piemontesi. Una roulotte di ambientalisti va a fuoco. Tre fantocci con su scritto il nome degli attivisti della rinascita vengono impiccati davanti ai cancelli dell'ACNA. Gli operai tirano ad indovinare il loro futuro dalle pagine dei giornali. Intanto, mentre accade tutto questo, in proscenio brilla l'affare Enimont. Enimont Edison, chimica pubblica, chimica privata, joint venture, Craxi, Raul Gardini. Ecco come risolvere i problemi economici della Mont Edison. Il matrimonio. Però poi la coppia, la crisi, il tradimento, il divorzio. Gardini compra tutto, dirà la chimica sono io, ed è l'inizio della fine, perché tutti gli volteranno le spalle tranne i magistrati. La fine arriva con un colpo di pistola. L'ACNA passa di proprietà dello Stato, che si accorge che ha un deficit di 80 miliardi, un fatturato in caduta libera. Ormai la chimica si è spostata in India e là puoi scaricare dove vuoi, la manodopera costa poco. L'Enichem inserisce l'ACNA all'interno delle aziende destinate alla liquidazione. Il mostro sembra avere quasi i giorni contati, manca solamente il colpo di grazia, ma adesso ministro all'ambiente è diventato l'onorevole Mattioli, che dice che il Resol è la migliore soluzione tecnica per lo smaltimento dei rifiuti. L'ACNA non perde tempo, trasmette subito una scheda tecnica per farsi appoggiare il Resol dal VIA, valutazione impatto ambientale, ma il VIA lo boccia. L'ACNA ci riprova e il VIA questa volta lo appoggia. Il Resol si può fare, sorgerà a Cengio. E la storia potrebbe finire qui, perché manca solamente una firma di un ministro all'ambiente. E quando mai è stato un problema la firma di un ministro all'ambiente? Adesso poi è Doronchi, ve lo ricordate? Quello che prendeva appunti quando il vuo barbiero battagliava l'ACNA a Savona. Chi l'ha conosciuto dice che è una persona seria, uno che non si fa tirare per la giacca, un ambientalista. È Doronchi. Non firma. L'ACNA verrà ufficialmente chiusa nel gennaio del 1999. Oggi, per chi arriva a Cengio, Cengio è una periferia senza centro, uno sfilare di case anonime, muri scrostati neri di fumo, finestre sbarrate e balconi senza fiori. Anche l'estate, alla desolazione di novembre, stanno facendo la bonifica. Convogli carichi di sali sodici li portano in Germania, in miniera, lontano da qui. E intanto perimetrare, contenere il percolato, le infiltrazioni, succhiare il veleno della ferita prima che entri di nuovo in circolo. Oltre il paesaggio si vede il passaggio a livello, una schiera di case in rovina si affaccia sulla fabbrica, finestre vuote come occhi spalancati su capannoni in disuso. Ciminiere, serbatoi, passerelle, grovigli di condotte, lagunaggi, acque immobili, teloni, camminamenti, detriti e ortiche. Più lontano, l'ansa del fiume. Quel fiume che scorre lento come la vita davanti agli occhi dei vecchi, seduti ai tavolini del bar a rubare un raggio di sole e in bocca un sapore amaro come di fenolo. I valligiani hanno vinto. Il fiume rubato con Andrea Perdicca, regia Nicola Pannelli, una produzione Narramondo Teatro. Musiche Yo-Yo Mundi, Alessandro Hellman, tratto da Cent'anni di veleno, il caso ACNA, l'ultima guerra civile italiana di Alessandro Hellman, Stampa Alternativa. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.